e distillando le rassegnazioni a casa mia producevamo sogni. Babbo e mamma dirigenti, io come i fratelli semplici operai. E una mattina mi svegliai da ragioniere e affogando il pane dentro il latte cominciai a pensare così. Ma chi mi ferma più? Al vicino con la topolino passerò vicino col sorriso in faccia. Ma chi mi ferma più la domenica a mangiare fuori? E chi mi sorpassa le corna farò. E all'ombra d'un garzone semi-analfabeta il tempo andava e lei non cominciava. Guarda un po' che casa hanno i donati, invece noi col bagno per le scale. E una mattina mi svegliai capitalista e affogando il pane dentro il latte cominciai a pensare così. Ma chi mi ferma più? Anch'io voglio dentro il portafoglio quel che vale come il principale. Ma chi mi ferma più? M'han fermato un calcolo sbagliato, due occhi neri e una pancia così. E distillando le rassegnazioni a casa mia noi produciamo sogni. Io, mia moglie e i dirigenti, i miei bambini, semplici operai. E ogni mattina tutti intorno al tavolino affoghiamo il pane dentro il latte e anche quello che non c'è.